GR24, il sole 24 ore. La Guardia di Finanza nella sede del Consiglio della Regione Lazio. Le dimissioni, dice la Polverini, domani si vedrà. Le vignette su Maometto, proteste a Kabul e Teheran, anche la Germania ora pronta a pubblicarle. Secondo uno studio di Cittadinanza Attiva, una scuola su 5 non è sicura, una su 3 raggiunge appena la sufficienza. La classifica dei più ricchi d'America, in testa Bill Gates, poi Buffett. Zuckerberg perde posizioni dopo lo sbarco in borsa di Facebook. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Ripartiamo dalle vicende giudiziarie, dalle polemiche relative ai fondi pubblici destinati ai partiti alla Regione Lazio. Stamattina la Guardia di Finanza è stata al Consiglio regionale. Come annunciato, si è difeso attaccando Franco Fiorito. Nell'interrogatorio Fiume di ieri ha tirato in ballo altri esponenti del Popolo delle Libertà. Fra questi ci sono il presidente del Consiglio regionale abruzzese e altri 8 consiglieri. Se ho sbagliato pagherò, ma io non ho rubato, i ladri sono altri, ha detto in sostanza l'ex capogruppo del PDL al Consiglio regionale del Lazio. Per spiegare il sistema con cui venivano spartiti i fondi pubblici, Fiorito ha consegnato agli inquirenti un memoriale e 2 casse di documenti. C'era chi andava a donne, chi si faceva pagare le vacanze, chi organizzava festini. Io invece ho trasferito soldi sui miei conti perché pensavo fosse regolare, ha spiegato Fiorito, che dalle casse del partito avrebbe prelevato almeno 800.000 euro. Per trovare riscontri alle sue dichiarazioni, i militari della Guardia di Finanza stamattina hanno ascoltato alcune persone nella sede del Consiglio regionale del Lazio. Quella emersa finora sarebbe una gestione caotica dei fondi del gruppo PDL, ai quali si poteva accedere con estrema facilità, anche solo con una telefonata, hanno confermato gli stessi inquirenti, che ora stanno vagliando le posizioni di almeno altre 10 persone. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E si fanno sempre più insistenti le voci sulle dimissioni della presidente della Regione Lazio Polverini. In diretta da Roma, Elisabetta Fiorito. Il PDL si interroga sul caso Lazio, il segretario Angelino Alfano convoca per martedì capigruppo di tutti i consigli regionali per evitare quanto è accaduto a Roma. Mai più un caso Lazio, tuona Alfano, che aspetta rappresentanti regionali PDL in via dell'umiltà. Ancora un mistero invece il futuro del governatore del Lazio Renata Polverini, che vuole tagliare comunque i costi della politica al consiglio regionale per poi eventualmente dimettersi. Non ho chiesto la testa di nessuno, dice questa mattina, non è mia abitudine, faccio la Presidente della Regione, quelle che sono le mie prerogative le rispetto e le utilizzo se ce n'è bisogno. Ma le pressioni a non mollare sono fortissime, soprattutto da parte di Silvio Berlusconi, che teme una valanga anche in Lombardia. Così andiamo a sbattere, avrebbe detto ieri il cavaliere nel vertice di Palazzo Grazioli, temendo i contraccolpi per la giunta Formigoni e per le elezioni comunali di Roma che si svolgeranno in primavera. Tutto ciò in un vertice, quello di ieri sera con gli ex DAN che minacciano di andarsene perché boicottati dagli ex di Forza Italia e frenati dal Cavaliere, ma anche con il faccia a faccia tra Berlusconi e la Polverini saltato sembra per un malore della stessa governatrice. Un caos che annulla l'effetto di ripresa del PDL dopo le divisioni del PD sulle primarie. Per il momento qui da Montecitorio è tutto, per studio. Il punto di Stefano Folli. Lo scandalo esploso nel Lazio è destinato a intossicare un modello politico e amministrativo esteso a molte regioni, non tutte, ma molte. E l'impatto colpisce in primo luogo il PDL, un partito che per troppo tempo, affidandosi alla leadership personale di Berlusconi, ha totalmente sottovalutato la necessità di selezionare una classe di amministratori degni di questo nome. A Roma c'è solo una cosa da fare, tagliare di netto il nodo e mandare a casa subito, con la Presidente Polverini, la Giunta e il Consiglio. Nuove elezioni e piazza pulita delle situazioni indegne. Vuol dire perdere il Lazio a vantaggio dell'opposizione? Sicuramente sì, ma almeno si mette un punto fermo e si ricomincia da un nuovo capitolo. Chiudersi nel castello della difesa a oltranza vuol dire invece farsi intossicare fino in fondo e non riuscire a salvarsi. Il PDL non è mai stato così vicino all'autodistruzione come in questi giorni. E chiudiamo la pagina politica con una notizia che riguarda il Senato. Pare che sia la prima volta che succeda nella storia, ma stamane la seduta della mattinata, appunto, è stata sospesa perché mancava chi doveva presiederla. Erano in discussione le mozioni sulla violenza contro le donne, ma dopo il turno previsto della senatrice Emma Bonino, la presidenza è rimasta scoperta. Ed ora cambiamo decisamente argomento, facciamo invece il punto sulle proteste in molti paesi per le vignette su Maometto. In diretta Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno, è massima allerta in Francia nelle sue rappresentanze diplomatiche mentre monta la protesta nel mondo islamico dopo la pubblicazione da parte del settimanale francese Charlie Hebdo delle vignette satiriche su Maometto, una iniziativa che ricordiamo è arrivata nel pieno della bufera per il film anti-islam, alla quale rischia di aggiungersene anche un'altra. Il magazine satirico tedesco Titanic infatti starebbe per pubblicare alcune pagine sempre dello stesso tenore. E intanto il partito dei fratelli musulmani egiziani Giustizia e Libertà chiede al governo francese di prendere una misura decisa e urgente contro Charlie Hebdo, così come fatto già per le foto di Kate Middleton, mentre minacce e intimidazioni sono arrivate alla redazione del settimanale. E dal canto suo il governo di Parigi difende la libertà di stampa ma prende precauzioni: domani giorno di preghiera nelle moschee, chiuderà ambasciate, centri culturali e scuole francesi di 20 paesi musulmani, mentre già oggi ha annullato le lezioni nei licei di Egitto e Indonesia. Vietata dalla prefettura anche una manifestazione prevista per sabato davanti alla grande moschea di Parigi. Mentre continuano le proteste in Iran, alcuni manifestanti hanno gridato slogan davanti all'ambasciata di Francia, un centinaio di afghani sceso in piazza a Kabul. E intanto condanna della violenza e delle cause che l'hanno provocata è stata espressa dal presidente del Parlamento europeo Martin Schulz, che ha anche stigmatizzato la distribuzione di un film blasfemo ed umiliante per i sentimenti di milioni di persone, sottolineando che comunque la violenza non può essere mai accettata. E per ora è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. La Fiat è il futuro del progetto Fabbrica Italia. Stamattina di nuovo una battuta di Diego Della Valle dopo le dichiarazioni pesanti dei giorni scorsi sul management del Lingotto. Viaggerà ancora su auto Fiat, gli è stato chiesto? Solo se vengono fatte in Italia, ha risposto. Intanto in mattinata la Fiat ha comunicato ai sindacati 3 settimane di cassa integrazione ordinaria negli stabilimenti di Cassino e Melfi a partire dal prossimo 17 ottobre e una settimana nello stabilimento Sevel di Atessa in Val di Sangro. Spiragli invece per l'Alcoa di Porto Vesme, sentiamo quali sono le novità. Per l'Alcoa di Porto Vesme la situazione in sé è molto difficile, ma i presupposti per una soluzione ci sono, bisogna lavorarci sopra. Così il sottosegretario allo sviluppo economico Claudio De Vincenti. Altri 2 gruppi infatti hanno manifestato un interesse importante per l'azienda di Porto Vesme. Si tratta, ha chiarito il presidente della regione Sardegna, Cappellacci, di un'azienda torinese e di una grossa società cinese. Quanto a quest'ultima, siamo in una fase preliminare e di riservatezza, ha chiarito il governatore, dunque il nome non è stato reso noto. Per quanto riguarda invece l'azienda torinese, offre, ha spiegato Cappellacci, una nuova tecnologia per l'energia che credo, ha aggiunto, vada ancora testata. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Hanno trascorso la notte in una tenda piazzata sul tetto del Duomo di Sassari 2 operai della Italcementi di Muros, che da ieri mattina hanno occupato il terrazzo sotto il campanile della cattedrale di San Nicola per chiedere la ricollocazione in altre aziende del gruppo o imprese in Sardegna. Stamattina uno di loro si è sentito male ed è stato dunque sostituito da un collega, Simone Testoni, segretario provinciale UGL Sassari, che si trova sotto il Duomo con altri operai Italcementi. Sentiamolo. Chiedono di essere ricollocati così come previsto nel protocollo firmato fra azienda e Regione Autonoma della Sardegna nel 2008. E a tutt'oggi i protocolli sono stati tutti disattesi dal 2008 ad oggi. È stata aperta la procedura di cassa integrazione firmata anche da noi, dall'UGL. Anche noi chiediamo che i lavoratori vengano ricollocati o riqualificati, così come prevede il protocollo. Qua ci sono tutti gli operai, uno dei cassaintegrati che stava sul Duomo si è sentito male, per fortuna siamo riusciti a portarlo giù, è arrivato il 118 con i medici e niente, adesso rimarrà giù, un altro lavoratore è salito su per dare il cambio, quindi sono sempre in 2. Da qua non si sposterà nessuno sino a quando non avranno risposte concrete per la loro ricollocazione. La Guardia di Finanza ha sequestrato 108 immobili in Piemonte e in Calabria di proprietà di 38 imputati dell'inchiesta Minotauro, quella sulle infiltrazioni dell'Andrangheta in provincia di Torino. Sentiamo il comandante della Guardia di Finanza di Torino, generale Giuseppe Gerli, al microfono di Adriana Fracchia. L'operazione risale a giugno dell'anno scorso e questa è un ulteriore capitolo. In buona sostanza, all'inizio dell'operazione, che è scattata a giugno dell'anno scorso, c'è stato, diciamo, il grosso dei sequestri degli immobili nei confronti di tutte le persone indagate. Attualmente che cosa è accaduto? Che 169 persone indagate sono state rinviate a giudizio, buona parte per il 416 bis. Ovviamente se saranno condannate bisognerà pagare le spese processuali, che ammontano allo Stato a circa 3 milioni di euro. In questa maniera lo Stato, attraverso questa iniziativa che è stata adottata dalla Guardia di Finanza e dalla Procura della Repubblica di Torino, si è garantito il pagamento delle spese processuali. E la differenza sostanziale rispetto ai sequestri tradizionali che si fanno nei confronti, diciamo, dei mafiosi, è che i sequestri tradizionali avvengono nei confronti dei beni, diciamo, di provenienza illecita. Questo ha colpito anche i beni di provenienza lecita, perché serve a garantire il pagamento delle spese processuali in caso di insolvenza. Nella classifica dei più ricchi al mondo della rivista Forbes, la sorpresa è la caduta di Mr. Facebook. La conferma è invece che il più ricco di tutti è ancora Bill Gates, fondatore di Microsoft. I social network saranno pure la moda del presente, forse del futuro, ma a fare i soldi con le nuove tecnologie è ancora Bill Gates, il fondatore di Microsoft che installa i suoi programmi sui PC di mezzo mondo. Lo rivela la classifica stilata da Forbes, rivista dell'omonimo miliardario che ogni anno si diverte a fare i conti in tasca ai suoi amici paperoni di tutto il mondo. La sorpresa di quest'anno è la discesa di Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook. Chi si aspettava la scalata del giovane genio al mondo dei supermiliardari si sbagliava. Zuckerberg è sceso dal 14° al 36° posto con un patrimonio di 9,4 miliardi di dollari. Un patrimonio considerevole, per carità, ma che si è assottigliato dopo la famosa quotazione flop dei titoli alla borsa americana. Ed ecco le conferme. Da quasi 20 anni in classifica resiste nel 2012 al primo posto Bill Gates, che di miliardi di patrimonio ne ha ben 66, cresciuti rispetto ai 59 dell'anno scorso. Dietro di lui il vecchio Warren Buffett, finanziere, schieratosi con Barack Obama e che dispone di 46 miliardi di dollari di patrimonio. Terzo, il veterano della Silicon Valley, Larry Ellison di Oracle, con 41 miliardi di dollari. E poi ci sono i proprietari della Walmart, la più grande catena di supermercati americana e del mondo. Alessio Maurizio, Radio 24, Sole 24 Ore. E ripartiamo invece parlando di Europa. Ci trasferiamo infatti a Bruxelles per il summit questa mattina fra Unione Europea e Cina. È un vertice sino-europeo ricco di ambiguità quello che si tiene oggi a Bruxelles. L'Unione Europea e la Cina hanno crescenti rapporti economici, ma dal punto di vista politico le incomprensioni restano. Oggi il primo ministro cinese Zheng Jiabao, in una dichiarazione pubblica, ha chiesto tra le altre cose ai partner europei di abolire l'embargo di armi imposto dopo i moti di Tiananmen del 1989. Anche da un punto di vista commerciale vi sono dubbi. Gli europei hanno aperto un'indagine contro i cinesi, sospettando dumping nel settore dei pannelli solari. Ieri esponenti della Commissione hanno voluto gettare acqua sul fuoco sull'importanza della vicenda, pur di non mettere a repentaglio il vertice di oggi. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Oltre 11 miliardi negli ultimi 3 anni è l'ammontare delle multe inflitte a 26 industrie farmaceutiche per comportamenti illeciti nella promozione e sperimentazione di medicinali. Fra le aziende sanzionate ci sono almeno 8 leader mondiali del settore. Secondo gli esperti, le ammende non intaccano minimamente il giro d'affari dell'industria farmaceutica. La mega multa di 3 miliardi inflitta alla GlaxoSmithKline rappresenta appena il 10% dei suoi ricavi. E veniamo alla cronaca italiana. Quasi l'80% delle scuole del nostro paese non ha la certificazione di sicurezza. Una scuola su 10 ha lesioni strutturali, la metà non ha una palestra, la manutenzione ordinaria è diventata un lusso. È il quadro sconfortante che emerge dal 10° rapporto su sicurezza, qualità e comfort degli edifici scolastici di Cittadinanza Attiva. Al microfono di Giuseppe Borello, la responsabile scuola Adriana Bizzarri. Nel passaggio del patrimonio dell'edilizia scolastica dallo Stato ai comuni e alle province c'è stata una sottopercezione della gravità della situazione. Abbiamo problemi di carattere strutturale gravi, l'assenza delle certificazioni di agibilità statica, di adeguamento sismico, la carenza di manutenzione ordinaria e quindi anche quelli che erano interventi magari che se fatti tempestivamente potrebbero ovviamente essere risolutivi, con l'andare del tempo provocano quei fenomeni di stacchi di intonaco, crolli di controsoffitti, di solai, di tetti. Metà delle scuole sono vecchie, ecco, quindi questo certamente rende tutto più complicato e sappiamo anche in un buon numero situati in edifici che non erano nati come scuola. Sia quest'anno sia in generale gli altri anni noi abbiamo notato che le situazioni peggiori purtroppo sono ancora al sud. Il GIP del Tribunale di Udine ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare in carcere per Lisandra Ghilarico, di 21 anni, colombiana, per il duplice omicidio di Lignano Sabbiadoro. Ed ora una brutta storia che arriva dalla Sicilia. La vicenda è avvenuta in provincia di Caltanissetta. Una donna è stata arrestata perché avrebbe fatto prostituire la nipote di 16 anni. Quattro uomini sono finiti agli arresti domiciliari, hanno avuto rapporti sessuali con la ragazzina pagando. Insomma, un giro di prostituzione creato dalla zia intorno alla sedicenne. Le indagini sono state avviate quando la ragazzina ha iniziato a saltare la scuola. In seguito ad intercettazioni e pedinamenti, gli inquirenti hanno accertato che la zia portava la nipote in vari appartamenti nei quali, si è scoperto, la faceva prostituire. Lo sfruttamento sessuale sarebbe avvenuto fra dicembre dell'anno scorso e giugno. Con i soldi intascati, la donna andava a giocare alle slot machine in bar e sale giochi. Fra gli indagati c'è anche un dipendente del comune di Enna. La donna gli aveva chiesto di risolvere un problema in cambio di un rapporto sessuale con la minorenne, che sarebbe avvenuto nell'ufficio comunale. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dopo le foto in topless, quelle senza slip. Sarebbero queste le immagini più scandalose di Kate Middleton che la rivista francese Closé non ha pubblicato. A metterle sul mercato invece ci starebbe pensando Se Og Or, spero di averlo detto bene, rivista danese che ha annunciato l'intenzione di pubblicare le foto rimaste nel cassetto con un supplemento di 16 pagine. E 13 tifosi svedesi del Napoli che avevano organizzato una trasferta nel capoluogo partenopeo sono stati aggrediti con mazze da baseball e coltelli fuori da una pizzeria da una banda composta da ultranapoletani. 3 i feriti. Tutto questo a poche ore dal match di Europa League, stasera al San Paolo, fra il Napoli e la squadra svedese AEK Solna. Intanto ieri sera buon pari della Juventus sul campo dei campioni d'Europa del Chelsea. Qui accanto a me Carlo Genta. Buongiorno Piera, buongiorno a tutti. Beh, dopo le notizie piccanti che hai dato dall'Inghilterra, rischio di diventare noioso, banale, no? Per questo pari della Juventus. Non sei mai banale, quindi non ti preoccupare. No, per questo pari della Juventus che è tornata in Champions League dopo parecchio tempo e cioè è tornata insomma con grande personalità, pareggiando sul campo dei campioni d'Europa del Chelsea. Giocando bene e insomma risollevandoci un po' il morale dopo la mezza figuraccia, o togliamoci pure la mezza del Milan l'altra sera contro l'Anderlecht. È stata una serata strana quella questo primo mercoledì di Champions League, una serata in cui anche il Barcellona ha sofferto molto in casa con lo Spartak Mosca, alla fine ha vinto 3-2 ma perdeva 2-1, in cui i belgi del Cluj sono andati a vincere sul campo del Braga che aveva eliminato l'Udinese nei preliminari, il Manchester United ha fatto molta fatica nel battere 1-0 il Galatasaray, però a noi interessa soprattutto la Juventus che era partita molto bene, è andata sotto con due magie di Oscar, giocatore brasiliano del Chelsea, ed è riuscita alla fine inserendo Fabio Quagliarella, cioè il giocatore che mancava anche come peso specifico per un attacco che all'inizio era troppo leggero, a risollevare la situazione, addirittura ad andare vicino alla vittoria perché lo stesso Quagliarella ha colpito una traversa. Dunque un'ottima Juventus ieri sera sul campo del Chelsea che ci lascia ben sperare, a differenza del Milan, Piera. Bene, grazie al nostro Carlo Gente. Prima di chiudere però ci sono delle importanti novità per quanto riguarda lo scandalo alla Regione Lazio, lo scandalo fondi pubblici. Allora torniamo a collegarci con Roma e con la nostra Elisabetta Fiorito. Elisabetta, cosa è successo negli ultimi minuti? Sì, proprio così Piera, Francesco Battistoni, capogruppo PDL nella Regione Lazio, ha rassegnato le dimissioni al segretario nazionale Angelino Alfano dice: non credo di essere stato motivo di frattura, ho fatto quello che i colleghi hanno ritenuto giusto fare, siamo arrivati a un punto in cui non posso permettere ulteriori strumentalizzazioni. Ricordiamo, Battistoni aveva sostituito Franco Fiorito, indagato dalla procura, e adesso ci sono queste dimissioni. Ancora invece non si sa che cosa farà Renata Polverini. Certo. Per il momento qui da Roma è tutto, poi studio. Grazie a Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. E questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, nel regia Roberto Scaltritti. Vi lascio al GR Spettacoli, poi Italia in Controluce. GR24 torna invece alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Buongiorno da Marta Cagnola e benvenuti alla seconda edizione del GR Spettacoli. In televisione oggi è il giorno del ritorno di X Factor, quindi di una nuova scommessa per Sky. Riconfermato tutto il cast, la conduzione di Alessandro Cattelan e i giudici, come Elio e Arisa, che così si è preparata. Con una plastica ho fatto. Ho fatto una plastica, ho ingigantito il mio seno di un paio di taglie. Sto scherzando. Ho tirato fuori la lucanità, che si batte per le cose in cui crede, nel senso che comunque era un po' una lotta all'ultimo sangue, quindi per difendere i miei cuccioli come una leonessa, come una leoncina, e mi sono un po' così adoperata per difenderli, perché secondo me meritavano tanto e sicuramente avremo presto la prova che meritavano tanto. Posso anticiparlo, anche se no, chiaramente non vi dico di chi né quale squadra ho, però siccome io e il Tafi pensiamo che i nomi siano importanti, ne abbiamo già cambiato uno. L'anno scorso è andata bene, nonostante tutte le critiche che poi si sono sciolte come neve al sole, ma cerco dei bei nomi, delle belle voci e soprattutto delle personalità importanti, ecco, gente che sappia andare sul palcoscenico, comportarsi bene, nel senso di farsi ascoltare, di risultare interessante. Intanto una star italiana tenta la conquista dell'America. Lorenzo Cherubini, aka Jovanotti, joins me now from New York. Hello Michael. How's my Italian? That wasn't bad, was it? You can speak Italian? No, I just said your name, that's as far as I'm prepared to go here. Yeah, but you actually you're wrong also with the name, because it's Jovanotti. It is a Jovanotti. Jovanotti. Well, I'm glad to hear that. Jovanotti ha subito scherzato sulla pronuncia del suo nome al debutto sulla CNN per annunciare l'uscita negli Stati Uniti di New York for Life, il suo nuovo singolo in esclusiva sul canale televisivo americano. In New York I found Rome, I found Milan, I found Paris. New York is made of Buenos Aires, Istanbul, Venice. Tutti associano l'italiano all'opera e alla musica classica, di certo non al rap, ha scherzato Lorenzo, mentre la CNN faceva notare che il suo account Twitter ha più follower di quello del Papa. Jovanotti ripartirà subito oggi per l'Italia, perché sabato sarà tra i protagonisti di Italia Loves Emilia, il grande concerto di campovolo in favore delle popolazioni terremotate. La cantante colombiana Shakira ha confermato che aspetta un bimbo. Lo ha fatto con un breve messaggio sul suo sito web, dopo settimane di speculazioni da parte della stampa specializzata nel gossip. Il papà è il compagno Gerard Piqué, calciatore del Barcellona. Finiscono in procura a Bergamo gli SMS scambiati tra Sabrina Ferilli e Francesco Testi. Dopo lo scandalo scoppiato in seguito alle fotografie in cui erano ritratti mentre si baciavano, ora Testi vuole provare la relazione, smentita invece dall'attrice che aveva insinuato che lui fosse in realtà legato al produttore della serie. E per il GR Spettacoli è tutto, da Marta Cagnola ancora l'augurio di una buona giornata.